Per certa è appena terminato l'incontro tra Renzi e Letta che dovrebbe o potrebbe essere decisivo. Sentiremo cinque tra commentatori e politologi. La domanda che vi stiamo ponendo anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno è: conviene a Renzi e al paese? Quattro ragazzini arrestati per una violenza sessuale nei bagni della palestra della scuola nel Savonese. Il dirigente scolastico e i compagni mettono in dubbio il racconto della ragazza che ha denunciato. Però il ministro Bonino sarà domani in Senato dopo la richiesta di intervento delle Nazioni Unite. Ban Ki-moon ha risposto che è una questione bilaterale tra Italia e India. Vittorio Conti è stato nominato commissario dell'INPS dopo le dimissioni di Mastrapasqua, incarico fino al 30 settembre. Nel frattempo l'organizzazione dell'istituto sarà rivista. L'asta di botta ad un anno, rendimento in netta discesa rispetto a gennaio, calano anche i rendimenti dei decennali ai minimi da 8 anni. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Naturalmente oggi apriamo con la politica, si è appena concluso l'incontro tra Matteo Renzi ed Enrico Letta che potrebbe o dovrebbe essere decisivo, come vi abbiamo detto anche nei titoli. Elisabetta Fiorito, facciamo un punto, buongiorno. Sì, appena terminato l'incontro tra Matteo Renzi e Enrico Letta, come hai detto tu Simone, a Palazzo Chigi, è durato un'ora. Il segretario PD ha lasciato l'edificio a bordo della Smart per dirigersi nella sede del partito a Largo del Nazareno. Ancora nessuna indiscrezione su quella che però sembra ormai delineata come una staffetta, l'avvicendamento dei due leader PD al governo. Non si conosce però ancora la modalità della crisi per uscire dall'impasse politica. Enrico Letta potrebbe chiedere un voto domani alla segreteria del PD, un voto palese per poi dimettersi, perché almeno fino a poco tempo fa voci insistenti davano il premier intenzionato a resistere. Prevista sembra una conferenza stampa di Letta già alle 16. Impazza poi qui a Montecitorio il toto ministri, al lavoro andrebbero Guglielmo Epifani, ex segretario PD e CGL, agli esteri resterebbe Emma Bonino, alla giustizia il vicepresidente del CSM Michele Vietti, Alfano vice premier, al Viminale invece ci andrebbe Franceschini o Del Rio, all'economia Boeri o Guerra. Per la cultura spunta addirittura il nome di Alessandro Baricco. Intanto il ministro dell'economia Saccomanno si dice disposto a restare, ma spiega, me lo devono chiedere. Ieri sera ricordiamo il passo indietro del capo dello Stato Giorgio Napolitano, spetta al PD decidere, e si parla anche di una maggioranza allargata fino a SEL. Per il momento da qui è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e come avete sentito anche le pagine dei giornali ne sono piene, già si parla di toto ministri anche se non si sa come andrà a finire la storia. Cosa dicono le altre forze politiche, Vincenzo Miglietta? Sì, partiti di maggioranza, quelli più piccoli, e l'intera opposizione alla finestra in attesa degli sviluppi di queste ore. Partiamo dalle forze che non appoggiano l'attuale esecutivo. Se la direzione del PD togliesse la fiducia a Letta e proponesse Renzi come premier, spiega Brunetta, succederebbe il finimondo, ci sarebbe il ribaltone, un ennesimo ribaltone di palazzo. Secondo l'esponente di Forza Italia, questo metterebbe a rischio anche il processo delle riforme. Con Renzi a Palazzo Chigi, dice ancora Brunetta, si genererebbe un cortocircuito che non può andare da nessuna parte. Disinteressati alla staffetta quelli del Movimento 5 Stelle, Grillo punta il dito invece sul capo dello Stato e ribadisce: e oggi il problema principale di questo paese, prima viene rimosso, prima l'Italia potrà ripartire. Avanti con Letta, dice intanto dal nuovo centrodestra Alfano, ma è il PD, aggiunge il vice premier, a dover chiarire se sostiene o meno l'attuale presidente del Consiglio per una discontinuità, scelta civica o un Letta bis o un governo Renzi, e la ricetta dei Montiani, il tutto Simone nel giorno dell'atteso via libera al decreto che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Sentiamo cosa ha detto Bruno Tabacci questa mattina a Giovanni Minoli, intervenuto a Mix 24. Questo cambio ci sarà domani? Ma secondo me al momento in cui sono arrivato le cose è ragionevole, e penso che debba venire anche con un'intesa. Non credo che debba essere domani il PD che fa un'azione di forza, perché sarebbe sbagliatissimo. Insomma, da questo punto di vista una sana cultura democristiana non sbaglia, perché sì, i democristiani hanno insegnato. Mi facevano come fare il presidente, il ministro degli esteri. Trovavano un modo per coinvolgere. Scusi, se si sono messi d'accordo nel corso degli anni Fanfani e Andreotti, che come lei sa benissimo, certo, non è che proprio si amavano, vuol dire che questi due giovani politici che sono la speranza degli l'Italia che si mettano fase, d'accordo che si mettano d'accordo. Vabbè, quindi insomma domani andremo verso il governo Renzi, Penso di sì. Così dunque Bruno Tabacci, uno che insomma ne ha passate parecchie, qualcosa ne sa. Parliamo adesso invece di una nomina arrivata oggi, come era attesa e anticipato anche dal Sole 24 Ore, oggi in edicola. Vittorio Conti è il nuovo commissario della dell'INPS, scusate, dopo le dimissioni di Mastrapasqua, e mi è uscito Consob perché ha lavorato anche in Consob, Vittorio Conti. Saluto il collega Davide Colombo del Sole 24 Ore, buongiorno Davide. Buongiorno, buongiorno. Allora, al di là della nomina, che è una nomina a tempo fino al 30 settembre, è probabilmente il tempo che si è voluto dare il governo per rivedere la cosiddetta governance dell'INPS, ossia come l'istituto è organizzato e come viene gestito. Che cosa si ipotizza? Intanto si parla di un disegno di legge che parallelamente a quello che è stato varato due settimane fa sulle incompatibilità di incarichi ai vertici degli enti nazionali, un secondo disegno di legge che appunto ridisegni la governance di INPS e di INAIL dopo la stagione delle grandi operazioni industriali di accorpamento degli enti minori. Il problema è che un disegno di legge, noi sappiamo, ha una vita molto lunga e molto incerta in Parlamento, nel nostro Parlamento, per cui questa nomina che arriva probabilmente in limine con un passaggio di governo, con un cambio di governo, è una nomina che si candida ad allungarsi naturalmente oltre i 6 mesi, a meno che le forze politiche trovino davvero una volontà forte e mettano mano a un processo decisionale più serrato. La governance di cui si parla è una governance che fa un passo avanti rispetto all'assetto duale, con un presidente monocratico che ha i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e un direttore generale che invece è responsabile della tecnostruttura, con una vigilanza di un comitato di indirizzo e vigilanza in cui appunto sono rappresentate le parti sociali. Potrebbe ritornare un consiglio di amministrazione in versione ridotta, bisogna vedere. Sicuramente la governance di INPS e INAIL dopo i grandi accorpamenti che sono stati fatti negli ultimi anni rappresenta, come dire, un passaggio molto importante, perché sono i due grandi istituti che veicolano il welfare di questo paese, insomma. Grazie a Davide Colombo per questi aggiornamenti e per queste informazioni. Noi passiamo alla cronaca adesso, perché ci sono 4 minorenni arrestati per violenza sessuale, una violenza sessuale che sarebbe avvenuta a scuola. Andrea Ferro, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. La violenza risale alla fine di gennaio e si è consumata in un istituto superiore di Finale Ligure in provincia di Savona. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Tribunale dei Minori di Genova, 4 studenti della prima classe, quindi tra i 14 e i 15 anni, hanno preso sotto braccio una loro compagna e l'hanno sospinta nel bagno. Lì uno dei 4 l'ha costretta ad un rapporto sessuale, mentre gli altri 3 assistevano nell'intenzione forse di usare a turno altra violenza nei confronti della ragazzina. A trarla in salvo è stata un'insegnante insospettita da una porta chiusa ed alcuni rumori. Dopo la denuncia presentata dai genitori della minore, i carabinieri hanno ascoltato varie testimonianze all'interno dell'istituto, tra i compagni di scuola e i docenti, e stamane nei confronti dei 4 studenti sono scattati i provvedimenti restrittivi. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori ha disposto il loro affidamento in comunità, come dicevi, in stato di arresto. Per tutti l'accusa è violenza sessuale in concorso, ripeto, hanno tra i 14 e i 15 anni. Restituisco la linea. Grazie al nostro Andrea Ferro. E adesso veniamo alla vicenda dei 2 Marò. Che cosa è successo? È successo che dopo l'appello rivolto dall'Italia alle Nazioni Unite, Ban Ki-moon ha risposto molto seccamente. Ha detto che è una questione bilaterale che riguarda Italia e India. Questa mattina le commissioni difesa, la commissione difesa del Senato, che doveva esaminare il decreto sulle missioni, sul rifinanziamento delle missioni, ha deciso di sospendere i lavori proprio per parlare di questo tema, in attesa del ministro Bonino, che riferirà dunque, è stato deciso, domani mattina alle 10 su tutto questo. Sulla vicenda sentiamo il commento, l'analisi dell'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. cioè, è venuta anche risposta positiva, per esempio da parte di Catherine Ashton per l'Unione Europea, che dice che non è possibile che l'Italia venga accusata di terrorismo, ma allo stesso tempo sono arrivati anche i primi rifiuti da parte delle Nazioni Unite. Per esempio il segretario generale dell'ONU ha detto che questa è una questione bilaterale tra l'Italia e l'India, ma noi sappiamo tutti che comunque ci sono delle risoluzioni delle Nazioni Unite per le operazioni di antipirateria. Silenzio anche dall'alleato, l'Alleanza Atlantica ha una delle missioni di cui noi facciamo parte, Ocean Shield, ma non ha detto nulla. E poi quel silenzio un po' sordante, diciamocelo pure, da parte del nostro più grande alleato, cioè degli Stati Uniti, che ci ha imbarcato in guerre in Iraq, in Afghanistan, in tutte le missioni di pace possibili e di guerra possibili e immaginabili, a cui tra l'altro abbiamo restituito uno dei suoi official dei servizi segreti l'anno scorso, e che non ha detto ancora una parola. Un silenzio davvero preoccupante. Così dunque Alberto Negri sui Marò. C'è una notizia arrivata ieri sera, importante, interessante per l'Italia, perché migliora la situazione della nostra libertà di stampa. Secondo l'indice 2014 di Reporters Sans Frontières, presentato a Parigi, il nostro paese progredisce di 9 punti rispetto al 2013 ed esce da quella che viene definita una spirale negativa. Tra le questioni torna in una situazione piuttosto buona, al 49esimo posto sui 180 della classifica. Un paio di notizie appena arrivate sulle quali vi voglio aggiornare. Innanzitutto che l'Agenzia delle Entrate ha appena predisposto sul suo sito la bozza del modello da presentare per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all'estero, la cosiddetta voluntary disclosure, ovvero il rientro volontario dei capitali dall'estero disposto dal decreto di fine gennaio. Stiamo parlando naturalmente dell'accordo con la Svizzera. Tra l'altro sulla Svizzera e soprattutto sul referendum torneremo più avanti con la nostra inviata a Lugano. L'altra notizia che vi volevo dare è che, a quanto pare, secondo le indiscrezioni che stanno circolando dalle agenzie, il Presidente del Consiglio Enrico Letta terrà a breve una conferenza stampa sul tema del rilancio del governo dopo l'incontro avuto questa mattina con Matteo Renzi. È naturalmente un elemento importante, fondamentale di questa giornata politica. Se naturalmente avvenisse durante effetto giorno, vi faremo sentire quantomeno parte della conferenza stampa. Adesso parliamo di musica. Cara mamma, mi piace la panna, sia lode il santo. Allora, è morto stamattina dopo una lunga malattia Roberto Fricantoni, storico leader degli Schiantos. L'artista bolognese avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 16 aprile. Se non altro, la malattia mi ha fatto smettere con la droga, scherzava un anno fa. Nel 2012 lasciò gli Schiantos dopo 35 anni assieme per dedicarsi alla carriera da solista. Lo sport ci porta a Sochi. Sochi 2014. Maria Pia Valls Beltrán, qual è il quadro di giornata? Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Direi che la delusione è arrivata nella discesa femminile per quanto riguarda gli italiani, anche se Daniela Merighetti l'ha presa benissimo, perché si classifica quarta nella discesa questa mattina, protagonista la nostra italiana in una delle gare più sorprendenti di questi giochi olimpici, perlomeno fino ad ora, perché è successo un po' di tutto. Lei è arrivata quarta, appunto, a 17 centesimi dal bronzo, dopo che era caduta nelle prove battendo anche il ginocchio. Ha esultato perché comunque la sua gara è stata la migliore dell'anno, dicendo: avrei voluto la medaglia ma sono molto orgogliosa di me stessa. Deluse invece le sorelle Fanchini. Nadia avrà la possibilità di rifarsi nel Super G e nel Gigante, gare che le sono anche più congeniali rispetto alla discesa libera, mentre Elena riparte domani. Non sono per niente soddisfatta, ha dichiarato: ho sbagliato un po' dappertutto. L'oro, ed è questa la notizia di giornata, è stato ex aequo. L'ha vinto Tina Madsen, per la prima volta una slovena è medaglia d'oro alle Olimpiadi, insieme alla svizzera Dominika Gisin. Quindi tutte e due sono salite sul gradino più alto del podio. Questa era una cosa che non capitava nello sci da Nagano 1998 nel Super G maschile. Il bronzo è andato alla svizzera Lara Gute, a distanza di soli 10 centesimi dalle prime. Grazie a Maria Pia Valls Beltrán. Naturalmente ti continueremo a sentire nel corso della giornata con gli aggiornamenti dalle Olimpiadi invernali. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Continuano a fioccare indiscrezioni dopo l'incontro tra Matteo Renzi ed Enrico Letta. Secondo alcune fonti citate dall'ANSA, ognuno è rimasto sulle sue posizioni. Secondo altre fonti citate da TM News, l'incontro sarebbe stato interlocutorio, così due delle principali agenzie di stampa. Si continua a parlare della staffetta, molti la danno per certa. Quattro ragazzini sono stati arrestati per una violenza sessuale nei bagni della palestra della scuola nel Savonese. L'asta dei bot ad un anno, il rendimento in netta discesa rispetto a gennaio, calano anche i rendimenti dei decennali, ai minimi da 8 anni. Vanno bene i mercati oggi, ne parleremo come sempre più avanti, intorno alle 13.30. Nel 2010 abbiamo visto annullare le elezioni, vuol dire colpire la scelta di milioni di cittadini. Così il presidente del Piemonte, Roberto Cota, torna a parlare della sentenza del Consiglio di Stato. E torniamo dunque alla politica, perché naturalmente quello che molte persone si stanno chiedendo in queste ore è se un cambio della guardia a Palazzo Chigi è utile al paese ed è utile a Matteo Renzi, se non può essere una mossa sbagliata. È la domanda che vi stiamo anche facendo sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. C'è chi dice, come Alessio, che tutta l'operazione serve a mettere le mani sul potere. C'è chi dice che alla fine ci guadagna solamente Berlusconi. Ebbene, noi abbiamo sentito una serie di editorialisti, politologi e non solo, e commentatori. Iniziamo dal vice direttore del giornale Nicola Porro. A Renzi la staffetta sicuramente non conviene, perché può apparire una manovra di palazzo della Prima Repubblica. Al paese forse sì. Quello che sta succedendo è che sono 8 trimestri di PIL in decrescita, l'inflazione è quasi sotto zero, la disoccupazione è a livelli record, la produzione industriale dopo di primi di segnali di rialzo è discesa a dicembre. Beh, insomma, se non si dà una scossa a questo paese implodiamo, quindi la speranza è che Renzi possa darla. Certo, a lui non conviene molto farlo oggi senza un bagno e un'investitura popolare. Alessandro Campi, politologo dell'Università di Perugia. Conviene all'Italia se l'alternativa è un governo come quello Letta, molto debole, che non è più in grado di fare nessuna delle riforme che si era data come obiettivo. Per quanto riguarda Renzi, l'operazione è sicuramente rischiosa e piena di incognite, nel senso che lui eredita una maggioranza parlamentare debole nei numeri, specialmente al Senato, e soprattutto poco coesa dal punto di vista politico. Diverso sarebbe se Renzi avesse vinto le elezioni e disponesse di una sua maggioranza. Sicuramente quello che si accinge a fare, la famosa staffetta, presenta non pochi margini di incertezza. Claudio Velardi, spin doctor, molto vicino al Partito Democratico, come sapete, e curatore di The Front Page. Al paese conviene, perché il paese ha bisogno di una scossa, avendo un governo paralizzato da 10 mesi oramai. A Renzi non conviene, però il fatto che lui si prenda questo rischio dovrebbe essere considerato con grande generosità, dovrebbe essere valutato bene, in maniera particolare dai commentatori, dagli opinionisti, dai media, che invece come dire, sono molto critici nei confronti di questa operazione, perché sono una parte di questo sistema stanco e avvizzito che è l'Italia. Quindi in sostanza a lui potrebbe personalmente non convenire, ma se lo fa è perché è un giovane di belle speranze che sa assumersi i rischi. Il dovere del sistema che vuole cambiare, se vuole cambiare, è quello di, come dire, di venire incontro, di valutare positivamente questa novità nella politica italiana. E Sergio Fabbrini, politologo della Luis Guido Carli. No, la mia risposta è abbastanza univoca, nel senso che la staffetta è un ulteriore meccanismo per rendere più confusa, più pasticciata la situazione politica e del governo. Non riesco a capire quali potrebbero essere le risorse nuove che Renzi può portare al governo, restando questa maggioranza e restando la risicata sul, come dire, margine risicato di forza del governo all'interno del Senato. Io penso per di più che questo potrebbe creare un ulteriore sconquasso all'interno del Parlamento. Forza Italia chiederebbe di entrare al governo, Renzi, che ancora non ha approvato la riforma elettorale né la riforma istituzionale, si troverebbe nella condizione di dover contrattare sia la riforma elettorale che istituzionale con il ruolo di Forza Italia al governo. Non vedo nessun vantaggio per Renzi, non vedo nessun vantaggio per il Paese. Credo che il Parlamento debba approvare in fretta la riforma elettorale e solamente una volta approvata la riforma elettorale e avviato il processo di revisione costituzionale si possa porre il problema di andare a nuove elezioni. E infine il nostro Stefano Folli del Sole 24 Ore, che però è in diretta con noi. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Allora, conviene a Renzi e conviene al Paese la staffetta? Conviene solo a uno, non conviene a nessuno dei due? Senti, guarda, stavo pensando, mentre ascoltavo le risposte, e mi è venuta in mente una frase abbastanza secca, diciamo, tutto questo conviene se Renzi sa dove andare. Se sa quello che sta facendo e l'orizzonte temporale che si sta dando, allora perché no? Un Presidente del Consiglio che sia anche capo del partito di maggioranza, quindi partito potenzialmente più forte, certamente è un rafforzamento, diciamo, dell'esecutivo, ma sa dove andare. Cioè, qual è l'orizzonte, per esempio, che si darà? Perché se è un orizzonte di legislatura, cioè un orizzonte di chi vuole rimboccarsi le maniche affrontando tutti gli infiniti nodi e le spine di questa situazione drammatica di qui al 2018, sapendo bene quali sono le riforme prioritarie, sapendo gli interventi per l'economia, per la società, benissimo, allora forse è il toccasana. Naturalmente bisogna anche avere una maggioranza solida per questo, bisogna sapere, appunto, tenerle insieme, e mediare quando c'è da mediare, essere incisivi quando c'è da essere incisivi. Se invece non si sa esattamente dove andare e si fa questa staffetta con l'idea che se poi il governo di legislatura non funziona, allora si va a votare rapidamente, beh, insomma, questo purtroppo determina una sensazione di precarietà. Sarebbe l'ultima cosa di cui ha bisogno il Paese non ha bisogno di altri governi precari, litigiosi, rissosi, e soprattutto non ha bisogno che un personaggio come Renzi, che ha saputo suscitare grandi attese, grandi speranze, vanifichi tutto, bruci tutto per un errore di valutazione. E grazie anche al nostro Stefano Folli. Oltre agli status su Facebook, qualche sms che arriva. Max dice: Renzi forse avrà meno remore a dimettersi e portarci alle elezioni qualora non passassero le riforme. E Filippo ci ricorda, ma lo sappiamo, che nei paesi democratici, il nostro è tale, esistono le elezioni. E Fabio che ipotizza una coalizione PD Forza Italia. Veniamo alla Svizzera e al post referendum. C'è la nostra inviata a Lugano, Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella. Sì, buongiorno Simone. Ecco, qui a Lugano, dopo la sorpresa della vittoria, questo è anche il momento dell'incertezza e dei timori per un voto che sta già cambiando i rapporti tra Svizzera e Unione Europea. Già oggi Berna dovrà dare delle indicazioni su come intenda mettere in atto le indicazioni della consultazione popolare, che vuole introdurre, come sappiamo, dei tetti all'ingresso dei lavoratori stranieri. E queste sono ore di febbrili contatti, anche se per ora informali, soprattutto tra il mondo delle imprese e il governo. Le aziende infatti vogliono essere parte attiva nella scelta delle regole, perché il rischio che vedono, insieme al congelamento già avvenuto peraltro di alcuni negoziati con Bruxelles, il rischio che si vede è che si possa aprire sul fronte produttivo una sfida, un braccio di ferro tra cantoni e tra i vari settori economici sulle quote per il reclutamento della manodopera. Certo, Raffaella, tu anche su questi temi hai raccolto alcune voci. Esatto, ecco, una di queste è quella del direttore della Camera di Commercio del Ticino, Luca Bertoni, che ricorda che noi non possiamo fare a meno dei frontalieri. Sentiamolo. L'economia è sempre preoccupata quando ci sono segnali di chiusura, perché quindi se ne è discusso molto, il popolo ha deciso altrimenti e va bene così, per carità, quindi non... i timori ci sono di ricadute negative, ad oggi però è praticamente impossibile quantificare. Però ecco, le aziende hanno fatto presente che questo tipo di voto in qualche modo allontana ancora di più la Svizzera dall'Unione Europea e quindi anche dal mercato unico europeo. Beh, abbiamo reso attenta la popolazione sugli effetti potenzialmente negativi di un voto di questo tipo, come quello che è uscito dalle urne domenica, quindi di difficoltà relazionali con l'Unione Europea che possono eventualmente avere ricadute negative sull'economia in generale. Su di questo si è discusso molto, il popolo ha ritenuto che non fosse l'elemento principale, per cui ecco, adesso ci tocca lavorare tutti su per fare in modo che gli effetti negativi, se ci saranno, saranno limitati proprio al minimo indispensabile. Le vostre percezioni, quali sono le aziende che in questo momento sono più preoccupate? Ma secondo me sono le piccole e medie aziende che già devono muoversi in un contesto abbastanza difficile, comunque molto competitivo. Di quale settore? Nell'esportazione in generale, direi. Eccoci, Raffaella. Sì, prego. Sì. Le ritorsioni economiche chiaramente sono ben chiare anche a chi ha sostenuto quel voto, ma oggi non vuole essere assolutamente considerato xenofobo, UDC e Lega ticinese in testa, ma decisivo nel voto del Ticino è stata soprattutto l'indicazione arrivata da sinistra, arrivata dai Verdi. Noi abbiamo incontrato Sergio Savoia, che ha origini sannite e che ora dice: io ho fatto cadere il politically correct, ho fatto votare quello che tutta la gente pensa. Sentiamolo. No, i miei genitori sono venuti con la classica valigia di cartone ed entrambi hanno votato sì. I miei genitori sono partiti da un paese che non riusciva a dar loro da mangiare. Sostenere la chiusura in qualche modo o i limiti nei confronti di altre persone che casomai nella stessa situazione di come eravate voi bussano alle porte della Svizzera? Qui parliamo di regolare il flusso, cosa che adesso non si può fare in alcuna maniera perché è contrario agli accordi di libera circolazione. Quando noi parliamo di mettere dei contingenti, non c'è scritto da nessuna parte quanto saranno alti questi contingenti. Questo è un paese in cui la gente entra ed esce, continua a entrare e uscire regolarmente, non c'è nessuna chiusura. Però io le rivolgo un'altra domanda: che politica è quella di un paese che permette a tutti di entrare e poi si disinteressa di come vivono gli stranieri? Li troviamo agli angoli delle strade a pulire i parabrezza, nei campi, alle periferie delle città. Bisogna far entrare le persone alle quali siamo in grado di assicurare delle condizioni di vita decenti, e queste persone devono poter vivere bene. E anche per questo, secondo lei, anche l'elettorato di sinistra ha sostenuto questo referendum? Sa, in Ticino abbiamo fatto il 70% dei voti, non sono tutti xenofobi, non sono tutti razzisti, non hanno tutti l'anello al naso. Le persone hanno capito dopo 10 anni di libera circolazione che non è il paese del Bengodi. Noi siamo un paese molto ricco, siamo un paese che funziona, vogliamo continuare a funzionare per gli stranieri residenti e per i ticinesi e anche per i frontalieri. Questa è responsabilità. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Appena battuta dalle agenzie, notizia importante: la Corte Costituzionale ha bocciato la legge Fini-Giovanardi che equipara le droghe leggere e pesanti. Nella norma di conversione, dice la Consulta, furono inseriti emendamenti estranei all'oggetto e alle finalità del decreto. Con la decisione rivive la legge Iervolino-Vassalli, come modificata dal referendum del 93, che prevede pene più basse per le droghe leggere. Ancora indiscrezioni sulle sorti del governo dopo l'incontro tra Letta e Renzi, sarebbero rimasti entrambi sulle proprie posizioni. Oggi pomeriggio conferenza stampa del Presidente del Consiglio. 4 ragazzini sono stati arrestati per una violenza sessuale nei bagni della palestra della scuola nel Savonese. In Gran Bretagna è stato emesso questa mattina un allarme rosso per l'ondata di maltempo prevista nel Galles, nel nord-ovest dell'Inghilterra. 20 fino a 160 km orari previsti, forti mareggiate e piogge torrenziali. È il momento della borsa. Borse in diretta. Le borse naturalmente, ma anche i nostri titoli di Stato, perché oggi da quel lato le cose vanno bene. C'è stata un'asta di bot a 6 mesi che ha visto i rendimenti scendere ai minimi e scendere notevolmente rispetto all'asta di gennaio, e ci sono invece i titoli di Stato, i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni, quelli sui quali poi si misura lo spread, che sono come rendimenti ai minimi da 8 anni a questa parte, dal febbraio del 2006 sono arrivati a questi livelli. Per il resto le borse vanno bene: FTSE MIB più 0,66%, FTSE All Share più 0,65%, Parigi più 0,43%, Francoforte più 0,76%, Londra più 0,12%. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. E bentornata. Allora, quanto gioca l'andamento dei nostri titoli di Stato e quanto gioca invece l'effetto dell'audizione di Janet Yellen, il nuovo presidente della Federal Reserve, ieri, che ha detto, insomma, state tranquilli perché non stringeremo i cordoni della borsa ancora per un po'. Ma sono tutti fattori che giocano positivamente su Piazza Affari, aiutata anche dai dati che provengono dalla Cina questa mattina, che vanno a sostegno di tutti i listini. Sono stati dati positivi sulla bilancia commerciale cinese, con un incremento a sorpresa sia dell'import che dell'export. Poi hanno giocato a favore, come dicevi, le dichiarazioni di Janet Yellen ieri sera sul prosieguo di una politica monetaria accomodante, e a Piazza Affari certo anche il buon andamento dell'asta di bot annuali. Titoli da segnalare oggi, Isabella? Ma guarda, il listino principale è spinto ancora una volta da Popolare Emilia Romagna, che fa più 3,8%, la Popolare di Milano più 1,9%, segue l'Unicredit con più 1,1%, questo grazie all'innalzamento del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Chevreux, più cauta Intesa che fa più 0,3%, Fiat cede uno 0,14% dopo il taglio del rating da parte di Moody's, peraltro atteso dagli analisti, mentre va bene Pirelli più 1,8%, questo dopo i conti di Michelin. Segnaliamo anche un più 1,4% di Mondadori, che sfrutta la reazione di fiducia che il mercato mostra sui piani di rilancio illustrati dall'amministratore delegato Ernesto Mauri in un'intervista al Sole 24 Ore. Grazie ad Isabella Tasso di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'abbiamo chiamata perché vogliamo parlare con lei di un paio di cose. La prima riguarda più strettamente l'Italia ed è la questione dei Marò, l'altra è una questione invece che riguarda tutti, che è la Siria. Sulla questione dei Marò, che cosa è successo? Lo riassumiamo per i nostri ascoltatori, che si sta tentando di chiamare in causa le Nazioni Unite, e ieri sostanzialmente Ban Ki-moon ha risposto picche, cioè ha detto è una questione bilaterale tra Italia e India, ve la dovete sbrigare voi. Differente la posizione dell'Unione Europea, che ha preso una posizione molto dura dicendo non si può accusare l'Italia di essere un paese terrorista. Vorrei sapere, Magri, come valuta la cosa, come valuta la presa di posizione di Ban Ki-moon e se secondo lei è veramente così come dice, cioè una questione bilaterale. Ban Ki-moon ha dato la risposta che un anno fa diede l'Ashton, perché l'Ashton, che in questi giorni ha dato un pronunciamento più favorevole all'Italia, un anno fa rispose esattamente che era una questione bilaterale. Questo ci fa capire da un lato che abbiamo avuto successo a livello europeo nell'internazionalizzazione della disputa, ma non abbiamo avuto successo in sede ONU. Era prevedibile in un certo senso, mentre in Europa la posizione italiana ha un suo peso, nell'ambito delle Nazioni Unite Ban Ki-moon deve tener conto anche di altri paesi. L'India è uno dei paesi importanti, nelle Nazioni Unite contano molto anche gli altri emergenti, e questa posizione di Ban Ki-moon più sfumata tiene conto dei diversi equilibri interni. Deve preoccuparci, ma forse delle due risposte quella che conta di più è quella dell'Ashton, la posizione dell'Ashton, perché nel negoziato con l'India, se si riuscisse a influenzare la magistratura per l'esito finale, è più pesante il rischio minacciato in sede europea di un rallentamento del programma di negoziato sul commercio con l'India di tutti i paesi europei, che non un pronunciamento dell'ONU, che sì, rappresenta l'universalità ma ha un valore più simbolico. Quindi delle due posizioni, quella che secondo me è più significativa per l'Italia è quella europea. Quella dell'ONU avrebbe aiutato, l'argomentazione di Ban Ki-moon è abbastanza debole visto quanto ha portato l'Italia sul tavolo sulla vicenda, ma non mi preoccuperei troppo. La domanda che le voglio fare sulla Siria, le chiedo se è possibile di essere abbastanza breve, anche se l'argomento meriterebbe molti più approfondimenti. Le notizie di cronaca di oggi ci raccontano di un altro centinaio di persone uccise nella Siria centrale, del fatto che prosegue l'evacuazione dei civili della città vecchia di Homs, ma soprattutto le cronache di questi giorni ci raccontano di un processo di pace o un tentativo di pacificazione che è in sostanziale stallo. è in sostanziale stallo. Nel primo round non è riuscito neppure a trovare un accordo su interventi umanitari. Il corridoio umanitario su Homs è avvenuto al termine dei primi incontri, cioè non durante gli incontri, e se questo tentativo su Homs avesse successo, vediamo che ci sono degli stop and go, degli avanzamenti, poi degli arresti, se avesse successo butterebbe qualche raggio di sole in più sul negoziato a Ginevra. È chiaro che a Ginevra non si discute del problema centrale, cioè il governo di transizione, ma si discute sulla creazione di cessate il fuoco e corridoi umanitari. Se fallisce quello in corso tutto diventa più difficile. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. E noi chiudiamo parlando del fatto, ritorniamo per una sorta di viaggio che stiamo facendo in effetto giorno. Venerdì 14 sono 10 anni dalla morte di Marco Pantani, è stato il corridore forse più popolare del ciclismo italiano moderno, morto per overdose di cocaina, lo ricordiamo, venne trovato senza vita in un residence di Rimini. Ancora adesso Pantani divide, per chi è un eroe, per chi è, per alcuni è un simbolo del doping. Sulla sua figura Dario Ceccarelli ha intervistato oggi Marco Pastonesi, autore del libro Pantani era un dio. Pantani era un dio. Perché Marco era un dio? Perché era considerato un dio, perché era uno scalatore, perché era uno che stava da solo, perché era uno che cercava il martirio, cercava il dolore, che è la strada di tutti gli scalatori. Dio, vabbè, era quello che appariva sulla strada, ma uomo, il Pantani uomo era quello giù dalla bicicletta, e io ho cercato quello. La prima cosa che ti viene in mente del Pantani uomo? Ma una persona fragile, debole, questo si sapeva e si è saputo soprattutto alla fine, una persona generosa e semplice, ecco, generosa e semplice, l'ho trovato, l'ho scoperto nei racconti di chi lo conosceva bene, cioè i suoi gregari. Che per lui stravedevano. Sì, ma sai che non ne ho trovato uno che avesse qualche vecchio conto da pagare con Pantani, anche perché Pantani in genere pagava sempre lui tutti i conti. Gli volevano bene perché era uno di loro, perché era una persona anche umile, una persona che parlava soprattutto in dialetto, tant'è che la sua squadra era spesso una nazionale romagnola e lo hanno sempre aiutato finché Pantani ha sbarrato la porta di casa e la porta soprattutto del suo cuore e si sono trovati tagliati fuori, impotenti, inerti davanti a quella tragedia. Lui aveva un suo codice di regole che non è il nostro e era lo stesso codice di regole che avevano i corridori, anche perché era la legge dei corridori che lo determinava, che un po' si poteva rubare. E lui aveva rubato un po', ma come tutti gli altri, tant'è che la storia poi, e pensiamo solamente ad Armstrong per dirne uno, la storia ci ha insegnato che quello era un periodo veramente maledetto. Ma perché non ha ammesso di aver sbagliato per ripartire da capo? Sì, come hanno fatto tutti, trovare una scusa, accusare un controllo viziato magari formalmente, come hanno fatto tutti, non ce l'ha fatta. Era un uomo appunto fragile, debole, era salito molto in alto, quindi cadendo si è fatto più male degli altri, era anche deluso dagli altri corridori, dall'ambiente, pensava di essere quasi immune da possibili critiche. E ci torneremo domani e naturalmente dopodomani, insomma, nel giorno del decennale. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Abbiamo 10 secondi prima di dare la linea a Mario Platero. Vi ricordo l'ultima notizia arrivata: la Corte Costituzionale ha bocciato la legge Fini-Giovanardi, quella che equipara le droghe leggere a quelle pesanti. Adesso appunto linea a Mario Platero e ad America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Just within the last half hour, the House voted 221. Voto alla Camera, è stata approvata l'estensione del tetto sul debito. Insomma, si cerca di dialogare a Washington, un buon segno, molti sperano. Vedremo come andrà al Senato, ma non dovrebbero esserci problemi. Ricorderete la paralisi, le difficoltà, il timore del fallimento del governo americano per il muro contro muro di repubblicani e democratici. Sempre alla Camera, ieri Janet Yellen in audizione alla Commissione Finanza, il suo debutto pubblico dopo essere diventata la Presidente della Federal Reserve, la prima donna a guidare la Banca Centrale Americana. Il suo è stato un messaggio per la continuità. In questo suo intervento dice sostanzialmente che l'economia americana ha guadagnato maggiore trazione nella seconda metà dell'anno, ha ricordato che sono stati creati 1,25 milioni di posti di lavoro da luglio, 3,25 milioni dal mese di agosto del 2012. Restano dei problemi sul fronte del lavoro, ma il messaggio chiave della Yellen è che, numero uno, si continuerà con il tapering, con le riduzioni degli acquisti di titoli sul mercato. Per marzo ci si attende un taglio di altri 10 miliardi di dollari. Ricordiamolo, la Fed cominciò con interventi di 85 miliardi di dollari al mese, si è poi scesi a 75, a 65 a gennaio e adesso si scenderà a 55 a marzo. Cosa può cambiare questo posizionamento della Fed? Beh, la Yellen è stata chiara, solo un drastico peggioramento delle condizioni macroeconomiche americane, cosa che non ci si aspetta. È possibile che ci sia un'influenza dalla crisi di Argentina, di Turchia, che ci sia stato un contagio proprio per via di questo cambiamento di politica della Fed? Assolutamente no, dice la Yellen. La Turchia e l'Argentina stanno male dal punto di vista economico perché non hanno gestito bene le loro situazioni interne, non c'è alcun contagio, soprattutto, dice, l'economia americana non avrà alcuna conseguenza da queste crisi di Turchia ed Argentina. Un messaggio dunque piuttosto duro, molto chiaro, molto netto, quello della Yellen. Il Dow Jones è aumentato dell'1,22%, quota 15.994, queste parole di rassicurazione sull'economia americana. Il settore immobiliare dice che va molto bene, l'occupazione comunque è aumentata, c'è lavoro da fare, insomma hanno dato un messaggio positivo, un avvio buono, quello della Yellen, che nei modi tra l'altro è molto simile a Ben Bernanke. Il tono pacato, le parole misurate, però questo decisionismo d'acciaio dietro la calma con la quale ha argomentato le sue tesi economiche davanti ai deputati americani. Midnight in Paris, la colonna sonora del film di Woody Allen, atmosfera parigina, francese, a Washington, questa visita del presidente François Hollande, beh, devo dire, la si sente, continue dirette. Ieri sera grande cena di Stato, è la prima cena di Stato offerta dal presidente americano nel suo secondo mandato, la prima in due anni. Vi ricordo che la visita del presidente francese, visita di Stato, è la prima addirittura in 20 anni, quindi era un'occasione molto particolare. Non mi sembra che ci sia stato un grande glamour, a giudicare da quello che ho visto di ieri sera. Per esempio, fra gli invitati non c'erano attori o grandi personalità del mondo del cinema o dello spettacolo, una lista molto seria, molti politici, molti ministri francesi, politici americani, naturalmente Eric Cantor, per esempio, il capo della maggioranza repubblicana alla Camera, il vicepresidente Joe Biden, e poi un po' tutti gli intimi della Casa Bianca, Valerie Jarrett, per esempio, vicinissima al presidente americano, Chuck Hagel, ministro per la difesa, John Kerry, segretario di Stato. Da parte francese, beh, la Lagarde, naturalmente, Christine Lagarde, che è il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ma non c'erano grandi celebrities, ecco, devo dire, una cena molto seria. Comunque, insomma, un menù succolento. Si è iniziato con uova di quaglia della Pennsylvania, caviale dell'Illinois, 12 diverse varietà di patate, un'insalata composta rigorosamente con verdure dell'orto coltivato da Michelle Obama, portata principale una costata di manzo di un allevamento del Colorado a conduzione familiare, servita con una crosta di formaggio del Vermont. Poi una grande selezione di dolci. Pensate che per un dolce, dove c'era una specie di mousse, il cuoco, ci hanno mandato varie foto dalla Casa Bianca, ha usato uno spruzzatore che si usa per le vernici, che fa questa micro spruzzatura per spruzzare in modo molto omogeneo con una mousse di cioccolata, con una vernice di cioccolata, queste creme. Concerto di Mary Blige, perché dopo cena poi ci si trova tutti nella East Room della Casa Bianca, dove ci sono le sedie, c'è l'intrattenimento. Ecco, così ieri si è chiusa questa visita ufficiale, una visita ufficiale che E devo dire, molta intesa sul piano della politica estera, una presa d'atto comune che in Iran e in Siria le cose non stanno andando per il meglio, una critica di Barack Obama al viaggio dei 100 capi azienda francese in Iran, e Obama non ha attaccato direttamente questa missione, ma ha detto: beh, noi abbiamo chiarito ai nostri uomini d'affari che non possono fare assolutamente nulla, altrimenti saranno colpiti da un carico di mattoni. Direi che un messaggio più chiaro di così non lo poteva dare. Il presidente francese ha fatto buon viso a cattivo gioco, ha mentito, ha detto che lui non ne sapeva niente, che questo viaggio è stato organizzato dalla Confindustria francese, ma sappiamo benissimo che a Parigi, in Francia, una cosa di questo genere non parte, non è neanche pensabile che possa essere organizzata o strutturata senza che ci sia l'autorizzazione dell'Eliseo, dei vari ministeri. E infatti il Ministero per l'Economia, l'ambasciata francese a Teheran, tutti hanno partecipato a questo viaggio. Però insomma è stata una parentesi nella conferenza stampa di ieri, dedicata più ai punti di intesa che a quelli di disaccordo, anche perché entrambi questi leader sono molto deboli, quindi si spalleggiano l'uno con l'altro. Una cena di Stato porta sempre una grande iniezione di immagine, e devo dire Barack Obama l'ha gestita molto bene, anche quando c'è stata una domanda un po' insidiosa da parte di una giornalista francese, perché Barack Obama a un certo punto ha detto: beh, le relazioni con la Francia sono le migliori che abbiamo da 5, da 10, da 20 anni addirittura. E la giornalista francese gli ha chiesto, dice: beh, allora, signor Presidente, se sono le migliori, sono davvero così straordinarie, perché non mette la Francia al posto della Gran Bretagna nella relazione speciale transatlantica? Obama ha risposto così: I have two daughters. Ecco, si è appoggiato alle figlie Barack Obama, dice: ma guardi, come le posso rispondere, io ho due figlie meravigliose, bellissime, intelligenti, ma certamente non posso scegliere fra l'una o l'altra, dice Obama, e così vale per i paesi europei, sono tutti partner, sono tutti amici straordinari, non possiamo creare delle gerarchie. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, un'altra notizia: è morta ieri Shirley Temple, 85 anni. E la bambina americana negli anni 30 ha fatto questi film straordinari dove a 5 anni cantava delle canzoncine, dei ritornelli, e chissà, forse lei stessa, dovendo dedicare una canzone alla Francia, avrebbe scelto un tema di molti anni fa, Louis Armstrong, La Vie en Rose. Hold me close and hold me fast, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Rapidamente un'ultima notizia importante: una valanga è caduta in località Ravales a Cortina d'Ampezzo e ha interessato la pista Forcella Rossa, dove si trovavano degli sciatori. Non si sa ancora se siano stati coinvolti. Naturalmente vi daremo aggiornamenti appena li avremo. Chiudiamo intanto Effetto Giorno. Un saluto a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggin in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24. A tra un attimo col GR.